Euroreportage. Milano, capitale dell'Eurasia, di Sergio Nava. Buongiorno dalla zona rossa di Milano, siamo in zona fiera, giovedì mattina, sta per cominciare il vertice ASEM e in una Milano traboccante di passeggeri sui metro e di auto per la strada, in un traffico intasato, questa è l'unica zona veramente tranquilla. Stanno per arrivare gli oltre 50 leader europei ed asiatici. Oggi vi racconteremo cosa è accaduto nei due giorni di ASEM a Milano, quali sono state le principali conclusioni e i principali risultati di questo mega vertice organizzato dalla Presidenza italiana dell'Unione Europea. Prologo al vertice vero e proprio è il Business Forum Euroasiatico organizzato a Milano da Confindustria e Business Europe. Tra gli interventi, quello del Premier Matteo Renzi si rivolge prima agli imprenditori con la scommessa sul futuro, poi gira la sfida ai politici. Dovremmo farlo anche noi, dovremmo farlo in Europa, dove il cambio dei leader, e saluto su questo Herman Van Rompuy e José Barroso, che tra 15 giorni lasceranno i loro incarichi, no, Herman un po' più tardi credo, che lasceranno i loro incarichi pensando che i nuovi vertici non dovranno essere semplicemente dei nomi nuovi, ma dovranno anche interpretare la fase nuova che si apre. E dall'altro lato dicendo a ciascuno di voi che o da questa vicenda si esce tutti insieme, o la crisi che sta tornando prepotentemente sui mercati internazionali è una crisi che non avrà vincitori. Ecco perché io sono molto ottimista, perché penso che il futuro possa essere il luogo nel quale andare tutti insieme con più determinazione. Il presidente europeo Herman Van Rompuy dedica un passaggio importante del suo discorso al problema della sicurezza globale messa a dura prova dall'avanzata dell'ISIS. The times are full of challenges. I tempi sono ricchi di sfide, soprattutto nel settore della sicurezza. Le nazioni devono unirsi e combattere il terrorismo come quello che sta minando l'Iraq e la Siria. Occorre porre fine alle violenze. Non c'è alternativa al dialogo né alla cooperazione. Sono fiducioso che le nazioni europee ed asiatiche unite possano dare un contributo significativo a questo sforzo. Stabilità e pace sono fondamentali per l'economia ed è l'economia che conta e ci unisce, dice Van Rompuy. Stability and peace is key for the economy and it's the economy that matters. Intanto il presidente uscente della Commissione europea, Giuseppe Barroso, preferisce invece focalizzarsi sulle sfide legate alla crescita. Stiamo seguendo una politica diversificata, favorevole alla crescita, stiamo anche puntando a riforme ambiziose e stiamo infine lavorando a una politica mirata agli investimenti. Abbiamo dunque riparato il nostro assetto istituzionale, abbiamo recuperato la stabilità finanziaria, proseguiremo le nostre riforme economiche finché torneremo alla crescita. Siamo sinceri, ci sono indicazioni di un rallentamento globale della crescita. Credo che abbiamo bisogno di misure mirate alla fornitura per alcuni, a uno stimolo della domanda per altri e riforme per tutti. Così, Barroso. Domestic demand stimulus for others and Czech reforms for all. Per noi è tempo di spostarci invece al centro Milano Congressi, dove a ora di pranzo giovedì cominciano ad arrivare gli oltre 50 leader europei ed asiatici. Ci troviamo in questo momento agli arrivi dei leader euroasiatici. In questo momento è arrivata Angela Merkel dalla Germania. Potete sentire l'elicottero che volteggia sopra di me. La folla di giornalisti attende chiaramente la cancelliera tedesca. Questo è un po', questa è l'aria che si respira nel momento in cui arrivano i principali leader euroasiatici. Subito dopo pranzo l'apertura dei lavori col presidente di turno dell'Unione Europea Matteo Renzi, che torna a parlare di crescita. Vorrei sottolineare come ormai si faccia patrimonio comune la necessità di investire e sostenere la crescita. Una crescita globale che sia sostenibile, ma anche una crescita globale che sia in grado di affrontare le difficoltà finanziarie e occupazionali che alcune zone del mondo stanno vivendo. Anche per questo trovo particolarmente rilevante che il nostro appuntamento ASEM si collochi prima del vertice G20 impostato e predisposto dall'Australia, che avrà luogo a Brisbane il 15 e 16 novembre. Il vertice Asia-Europa prosegue con un intervento del Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, che mette in evidenza l'obiettivo di migliorare la cooperazione finanziaria ed economica tra i due continenti. Nel XXI secolo, dice Van Rompuy, nessun paese può isolarsi, occorre colmare i differenziali di sviluppo. E nel pomeriggio, incontrando i giornalisti, Renzi torna a insistere sulla crescita. Rispetto alla situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo che è un momento delicato, l'abbiamo detto stamani mattina, ho già parlato stamattina. A maggior ragione l'Europa deve farsi trovare capace di dare una risposta economica che investa sulla crescita e non soltanto sul rigore e l'austerity. Ma questo è un argomento di cui discuteremo nel corso del Consiglio europeo del 23-24. Come sapete, l'Italia ha fatto la scelta di rispettare i limiti, il 3% con una manovra al 2,9%. L'Italia sta facendo il percorso di riforme strutturali, quindi l'Italia ha tutte le carte in regola. Quello che a mio giudizio però oggi è necessario è un grande investimento sulla crescita, che sarà oggetto della discussione al G20 in Australia a metà novembre, che è una raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale. Non mi paiono pericolosi comunisti quelli del Fondo Monetario Internazionale, e hanno detto focus sulla crescita. Credo che anche l'Europa potrà e dovrà, fin dal prossimo Consiglio europeo e comunque con i nuovi vertici, riflettere un pochino di più su questi temi della crescita, perché come vediamo ancora oggi la crisi non è risolta, è una crisi internazionale, una crisi di fiducia, una crisi di confidenza, è una crisi legata anche a fenomeni specifici, preoccupanti, alle tensioni che ci sono in vari settori. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Non credo che sarà semplice risolvere questo momento, ci sono gli stress test delle banche, ci sono tante questioni aperte, però quello che è fondamentale è che per l'Italia la cosa principale è buttare giù le spese e investire in modo diverso sulle scelte strategiche che abbiamo fatto. Per farlo bisogna abbassare le tasse e restituire un po' di libertà ai cittadini. Più tardi, alla cena di gala serale a Palazzo Reale, il capo dello Stato Giorgio Napolitano batte sullo stesso tasto. Ma di certo all'Unione Europea tocca ora imboccare la strada di politiche più favorevoli alla crescita, anche perché, nonostante indubbie differenze nel suo seno e l'Europa nel suo insieme, che accusa i colpi di una tendenziale stagnazione se non deflazione. La mattinata di venerdì è quasi interamente occupata dalla questione ucraina. Una riunione mattutina nella prefettura a Milano porta a timidi passi in avanti dopo il lungo incontro della sera prima tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin. Proprio Putin, all'arrivo al centro Milano Congressi, se la cava con un positivo di circostanza, mentre molto meno ottimisti appaiono la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier britannico David Cameron, commentando l'esito del mini vertice. Cameron è esplicito: la Russia deve rispettare gli accordi, altrimenti avanti con le sanzioni. La Merkel non parla, brutto segno, e più avanti fa trapelare di non aver visto aperture da parte di Putin. Il punto centrale è se l'integrità dell'Ucraina viene rispettata. La domanda centrale è se si trova un modo per cui si possa concordare il fatto di tenere delle elezioni nella regione di Donetsk secondo il diritto ucraino, dice la Merkel. Se possono queste elezioni essere trasparenti e con osservatori internazionali, al momento, afferma, non c'è alcuna apertura. Anche il presidente europeo Farron poi in conferenza stampa rompe la tradizionale etichetta diplomatica che lo contraddistingue per ammettere che nascondere le divergenze di vedute sull'Ucraina sarebbe stato inutile. Non c'è ancora una soluzione politica, ammette Farron poi. Sentiamo su questo il commento del premier Matteo Renzi. Io credo che sia molto importante che da Milano sia ripartito un percorso che continua, sta continuando in vari formati. Si sono fatti dei passi in avanti molto molto importanti. Naturalmente c'è ancora molto da fare. La mia posizione, che confermo e ribadisco e che ho cercato di illustrare sia in conferenza stampa che questa mattina durante il breakfast, è che una eventuale risoluzione della questione ucraina sarebbe innanzitutto utile per gli ucraini, per il popolo ucraino, per la stabilità di quella regione, sarebbe molto importante naturalmente per la Russia, sarebbe ovviamente importante per l'Europa, ma sarebbe importante per l'intera comunità internazionale, perché consentirebbe alla Russia di tornare a giocare un ruolo nelle principali questioni internazionali che sono numerose e per molti aspetti preoccupanti. In realtà dietro le quinte il lavoro prosegue. Il futuro alto rappresentante europeo Mogherini negozia su uno dei punti emersi nella colazione del mattino, vale a dire l'utilizzo dei droni nel territorio di nessuno del Donbass, sulla linea che separa Russia e Ucraina. L'obiettivo è attivare una missione OSCE che preveda l'utilizzo di droni. Francia, Germania e Italia sono pronti a collaborare. E il mini colpo di scena arriva così nel primo pomeriggio. Coincide con l'ennesimo vertice sull'Ucraina, questa volta nel formato cosiddetto normanno. Germania, Francia, Russia e Ucraina. L'Italia manca. Arriva la vera svolta. Prima è Vladimir Putin a dire che l'ultimo incontro è stato buono. A ruota il presidente ucraino Poroshenko afferma che sono stati raggiunti tre accordi principali. Seguire fermamente il memorandum di Minsk, tenere elezioni nella regione di Donetsk sulla base della legge ucraina e i parametri principali del contratto sul gas, afferma Poroshenko. Soddisfatto pure il presidente francese Hollande, l'accordo sul gas è veramente a portata di mano. È stata raggiunta anche un'intesa per accelerare lo scambio dei prigionieri. In questo senso, insomma, Milano pare aver rappresentato una svolta nella crisi ucraina. Forse però non esattamente con le modalità preferite dalla presidenza italiana. Nelle partite che contano a livello della diplomazia internazionale, insomma nella Champions League, continuano a giocare Germania e Francia, soprattutto la Germania. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.